Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone. L'AIFA ha autorizzato uno studio per valutare gli effetti dell'idrossiclorochina per la prevenzione dell'infezione causata dal SARS-CoV-2 negli operatori sanitari. Lo studio, promosso dall'Università di Oxford, vede come capofila per l'Italia l'IRCCS Sacro Cuore Don Calabria di Negrar di Verona in collaborazione con l'ospedale Careggi di Firenze. A Obiettivo Salute la dottoressa Dora Buonfrate, coordinatrice della ricerca, medico infettivologo del Dipartimento di Malattie Infettive Tropicali dell'IRCCS Sacro Cuore Don Calabria di Negrar. Buongiorno, grazie. Dottoressa Buonfrate, l'idrossiclorochina è un farmaco che viene utilizzato in Europa per il trattamento di alcune malattie autoimmuni come il lupus e l'artrite reumatoide, ma durante questa emergenza è stato preso in considerazione insieme ad altri farmaci per il trattamento del Covid, non essendoci ancora farmaci mirati. Partiamo da qui. Esattamente, come dice lei, è un farmaco da noi conosciuto, utilizzato già da decenni. Si è dimostrata in vitro, quindi in laboratorio, un'efficacia nei confronti di questo virus SARS-CoV-2 e quindi adesso dal laboratorio passiamo alle sperimentazioni nell'uomo. Lo scopo dello studio, a cui in Italia parteciperanno almeno 800 volontari tra medici, infermieri e operatori sanitari, è valutare se l'uso dell'idrossiclorochina prima dell'esposizione al coronavirus diminuisca la probabilità di ammalarsi. Esattamente, in questo studio andiamo a verificare l'efficacia del farmaco in chiave preventiva, quindi assumendolo prima che si possa avere un contatto con il virus, vedere se il soggetto può non ammalarsi. Quando si avranno i primi risultati, dottoressa Buonfrate? I primi risultati dovrebbero essere già disponibili verso la fine dell'anno. Sarà molto importante valutarli anche per verificare un possibile utilizzo nella popolazione generale, quindi in queste persone che sono state a contatto con un soggetto infettato e quindi possa prevenire l'infezione poi in queste altre persone. In attesa dei risultati della ricerca, dottoressa Buonfrate, la raccomandazione, e lo sottolineiamo, è evitare il fai da te, dottoressa. Certo, questo con tutti i farmaci, qualunque farmaco può avere effetti collaterali e quindi anche in questo caso il medico deve valutare prima il paziente per valutare che sia un farmaco a questa persona prescrivibile e valutarlo durante l'assunzione. Grazie dottoressa per essere stata con noi, le auguro una buona giornata. Grazie anche a lei. L'appuntamento con Obiettivo Salute News termina qui, vi invito a visitare la nostra pagina del programma Obiettivo Salute, a partecipare all'iniziativa sulla gratitudine, vi lascio con un video sulla pagina Facebook, il professor Antonino Di Pietro, dermatologo, si prende cura della pelle degli uomini. Vi aspetto, non mancate, una buona giornata da Nicoletta.